una storia che ci piaceva raccontare. E con noi c'è Julien Jox, consulente della comunicazione per gli affari europei a Bruxelles. Ciao Julien. Ciao. Buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, grazie. La storia di Julien, mi piace raccontarla perché insieme ad altri giovani d'Europa quest'estate avete fatto una scelta che è stata quella di fare un campo di lavoro organizzato da Libera, il movimento di Don Luigi Ciotti per l'educazione alla libertà. Siete stati in Sicilia, avete fatto un campo, avete lavorato credo proprio nelle terre confiscate alla mafia, avete fatto formazione. Ma perché uno dal Belgio si prende e viene in Italia per fare un campo di lavoro sulla legalità con Libera? Devo dire che la mia ragazza è italiana e che volevo un po' più capire la cultura dell'Italia, di questo bello paese. E è vero che per noi che non siamo italiani la mafia è qualcosa di un po' astratto, è qualcosa che vediamo solo nei film di Hollywood, qualcosa che non è facile da capire. E magari volevo un po' più capire questa cosa nell'altro giro volevo anche lavorare la terra, perché in questa periodo un po' difficile di crisi credo veramente che il cambiamento devo ripartire dalla terra. Fantastico, insomma, quindi è una doppia finalità, anche se è molto bello e stimolante sapere che si vuole scoprire la mafia andando a studiare la lotta alla mafia, no? Quindi educandosi alla legalità. E Giuliano, abbiamo veramente pochissimi secondi, però qual è il ricordo più bello che ti porti a casa da questa esperienza con Libera? E allora, il più bello momento credo che era quando siamo tutti andati in un piccolo villaggio di Sicilia per prendere una gelata, che eravamo tutti insieme, ma con le magliette rossi dove era scritto "Siete liberi". E abbiamo preso una gelata sul villaggio così. E tutte le genti erano veramente contenti di parlare con noi, di dire che siamo un po' il cambiamento del futuro per loro. Era un exchange veramente bello. Insomma, ci piace anche a noi questa immagine, insomma, le cose si possono cambiare, anche voi lo avete dimostrato. Ciao Julien, grazie davvero e alla prossima.